È quasi l'ora di andare in cucina a calare l'acqua, meglio la pasta. Sì, perché l'acqua non si può calare, lo so, solo che ha messo sbagliare in questo pianeta. E abbiamo fame da un po' di novità, e non è una novità che abbiamo tutti fame, si sapeva da tanto.